Tom si precipitò fuori dalla stanza, sbattendosi la porta dietro le spalle, stranamente stordito dalla collera, giacché lo sbattere le porte dentro il raggio d'udito di Mrs. Stelling, che non era probabilmente lontana, era un'offesa che non poteva lavarsi con meno di 20 versi di Virgilio. Effettivamente la signora non tardò a scendere dalla sua camera, doppiamente meravigliata, e del rumore e della conseguente cessazione della musica di Philip. Lo trovò raggomitolato sulla stuoia, che piangeva amaramente. «Che cosa succede, Wakem? Perché quel fracasso? Chi è stato a sbattere la porta?» «Era Tulliver, che era venuto qui a chiedermi di uscire con lui!» «E cos'è che vi fa soffrire?» disse Mrs. Stelling. Dei due scolari, Philip non era il suo favorito. Era meno cortese di Tom, il quale si rendeva utile in tanti modi. Tuttavia, il padre di lui pagava più che Mr. Tulliver ed ella voleva dargli l'impressione che lo trattava estremamente bene. Philip, peraltro, a tutti i passi da lei fatti in vista di una buona comprensione reciproca, rispondeva pressappoco come un mollusco accarezzato risponde all'invito di mostrarsi fuori dal guscio. Mrs. Stelling non era donna affettuosa e di cuor tenero. Le sue gonne cadevano sempre a piombo e nel domandarvi come stavate s'aggiustava il busto con aria preoccupata e si ricomponeva le ciocche. Queste cose esercitavano senza dubbio un grande ascendente dal punto di vista sociale. Ma non è l'ascendente della tenerezza e nessun altro invece avrebbe potuto smuovere Philip dal suo personale riserbo. Per darle una risposta gli disse: «Mi è tornato il mal di denti che mi rende nervoso». Questo era già effettivamente accaduto altra volta e Philip fu contento di ricordarsene. Era come un'ispirazione che gli permetteva di giustificare le proprie lacrime. Di conseguenza dovette accettare dell'acqua di Colonia e rifiutare del creosoto, ma la cosa gli fu facile. Nel frattempo Tom, che per la prima volta aveva lanciato una freccia avvelenata nel cuore di Philip, era tornato alla rimessa dove trovò Mr. Poulter, l'occhio fisso e animato, in atto di prodigare le perfezioni della sua tecnica schermistica ai topi, che probabilmente lo osservavano pur senza apprezzarlo. Ma Mr. Poulter era un uomo di grandi risorse, nel senso che si ammirava da solo più di quanto l'avrebbe potuto ammirare un intero esercito di spettatori. Non fece caso del ritorno di Tom, essendo troppo occupato nell'attacco e nella parata, nel solenne 1, 2, 3 e 4. E Tom, non senza una piccola sensazione di terrore per l'occhio fisso di Mr. Poulter e per l'aria aggressiva della sciabola, che pareva cercasse qualche altra cosa da ferire oltre l'aria, ammirava quelle prodezze dalla maggior distanza possibile. E solo quando Mr. Poulter si arrestò per tergersi il sudore dalla fronte, Tom sentì tutto il fascino di quell'esercizio e desiderò che fosse ripetuto. «Mr. Poulter», disse Tom quando la sciabola fu finalmente ringuainata, «vorrei che mi imprestaste la vostra sciabola da tenermela un po' di tempo». «No, no, no, mio giovane signore», disse Mr. Poulter scuotendo il capo, «potreste farvi del male». «No, son sicuro di no, son sicuro che saprò fare attenzione e non ferirmi, non la toglierei mai dal fodero, ma potrei montare la guardia e fare tanti altri giochi». «No, no, non voglio, ve lo ripeto, non voglio», disse Mr. Poulter disponendosi ad andarsene. «Che mi direbbe Mr. Stelling?» «Ma sì, ve ne prego, Mr. Poulter, se mi lasciate tenere la sciabola per una settimana, vi darò la mia moneta da 5 scellini, guardate», disse Tom, estraendo il largo ed attraente disco d'argento. La piccola canaglia calcolava l'effetto come fosse stato un filosofo. «Bene», disse Mr. Poulter con una gravità ancor più profonda, «ma dovete tenerla ben nascosta, sapete?» «Oh sì, la terrò sotto il letto», disse Tom vivamente, «o magari in fondo al mio baule. E fatemi un po' vedere adesso se siete capaci di estrarla dal fodero senza ferirvi». Quando questa esperienza fu ripetuta più di una volta, Mr. Poulter sentì di aver agito con scrupolosa coscienziosità e disse: «Bene, ed ora, Mr. Tulliver, se prendo la vostra corona è per garantirmi che con la sciabola non combinerete dei guai». «Oh no, certamente, Mr. Poulter», disse Tom, tendendogli con gioia la moneta e afferrando la sciabola che, a suo modo di vedere, sarebbe potuta con vantaggio essere più leggera. «Ma se Mr. Stelling ve la scoprisse?» disse Mr. Poulter, intascando provvisoriamente la moneta mentre sollevava questo nuovo dubbio. Oh, al pomeriggio del sabato sta sempre di sopra nel suo studio, disse Tom, che detestava tutti i sotterfugi, ma non era alieno da un piccolo stratagemma per una causa degna. Così, con un trionfo misto di timore di incontrare Mr. o Mrs. Stelling, si portò la sciabola in camera sua, dove, dopo matura riflessione, la nascose nell'armadio, dietro alcuni abiti spenzolanti. Quella notte s'addormentò col pensiero che quando veniva Maggie gli sarebbe servita a farla stupire. Se la sarebbe legata alla cintola con la sua sciarpa rossa e le avrebbe fatto credere che la sciabola era sua e che gli stava per diventare soldato. Non c'era che Maggie così sciocca da credergli. A lei sola osava di far sapere che possedeva una sciabola ed effettivamente Maggie doveva venire la prossima settimana a far visita a Tom prima di entrare in collegio con Lucy. Se vi stupite che un ragazzo di 13 anni fosse così puerile, allora vuol dire che siete un uomo eccezionalmente saggio e che quantunque dedicato ad una carriera civile, nella quale si esige da voi un mite piuttosto che un formidabile aspetto, non vi siete mai più messo, da quando avete barba, davanti allo specchio in atteggiamento marziale o corrugando il ciglio. Chissà se noi potremmo ancora tenere dei soldati, ove non ci fossero dei pacifici individui che in casa propria si divertono a fantasticare d'essere soldati. La guerra, come altri spettacoli drammatici, verrebbe probabilmente a cessare per mancanza di un pubblico. 5. Seconda visita di Maggie. Quest'ultima rottura tra i due ragazzi non fu facile a comporre, e per parecchio tempo essi non si parlarono a vicenda che per stretta necessità. La loro naturale antipatia rendeva facile il passo dal risentimento all'odio. In Philip la trasformazione pareva già cominciata. Di carattere era tutt'altro che malvagio, ma la sua suscettibilità lo rendeva particolarmente soggetto a forti sentimenti di repulsione. Il bue, possiamo azzardarci ad affermarlo sull'autorità di un grande classico, non è portato a servirsi dei propri denti per aggredire, e Tom era un ottimo ragazzo bovino, che si buttava nelle discussioni con una vera ingenuità da bue, ma stavolta era andato ad inciampare proprio nel punto più sensibile di Philip e gli aveva cagionato una pena così acuta, come se avesse studiati i mezzi con la più accurata precisione e con l'odio più velenoso. Tom non vedeva ragione di non farla finita con quel bisticcio, come avevano fatto con tanti altri, comportandosi come se nulla fosse stato, perché se anche non aveva mai detto prima d'allora a Philip che suo padre era un furfante, questa idea era divenuta una parte così abituale dei suoi sentimenti, in tutte le relazioni con quella specie di compagno di scuola, verso cui non provava né attrazione né repulsione, che il semplice fatto di averla espressa non poteva per lui fare epoca, come aveva fatto per Philip, ed aveva pure il diritto di parlare come aveva parlato dal momento che Philip l'aveva svillaneggiato e gli aveva dato dei nomacci. Ma accorgendosi che i suoi primi approcci amichevoli non venivano accolti, ricadde nelle sue disposizioni meno favorevoli verso Philip e decise di non ricorrere più a lui né per il disegno né per gli esercizi. Così si dimostravano solo quel tanto di vicendevole educazione necessaria a impedire che il loro stato di ostilità venisse osservato da Mr. Stelling, il quale, di fronte a simili sciocchezze, avrebbe tagliato corto con grande energia. Comunque Maggie, quando arrivò, non poté difendersi dal guardare con crescente interesse il nuovo compagno di scuola, ancorché fosse figlio di quel perfido avvocato Wakem che faceva tanto arrabbiare il babbo. Era giunta durante le ore di scuola e s'era seduta lì, in classe, mentre Philip faceva la propria lezione con Mr. Stelling. Qualche settimana avanti Tom le aveva mandato a dire che Philip sapeva delle storie da non finir più, e non delle storie stupide come le sue. Ed ora ella stava convincendosi, per esperienza propria, che il ragazzo doveva essere molto intelligente. Sperava che anche lei gli avrebbe fatto l'impressione di essere piuttosto intelligente quando sarebbe andata a parlargli. Maggie aveva inoltre una tal quale tenerezza per gli esseri disgraziati. Preferiva gli agnelli dal collo storto perché le pareva che a quelli forti e ben fatti importasse molto meno di essere accarezzati. E lei amava specialmente gli esseri inferiori, che trovavano delizioso di sentirsi da lei accarezzati. A Tom voleva molto bene, ma spesso desiderava che egli apprezzasse di più la sua tenerezza. Trovo che Philip Wakem ha l'aria di un ragazzo simpatico, Tom, disse quando dallo studio uscirono insieme in giardino per passare il tempo prima del pranzo. Non poteva sceglierselo lui, il babbo, lo sai, e io ho letto di gente molto cattiva che aveva dei figli buoni, così come di buoni genitori che avevano dei cattivi figlioli. E se Philip è buono, credo che dobbiamo essere tanto più spiacenti per lui che suo padre non sia un bravo uomo. Tu gli vuoi bene, no? Oh, è uno strano tipo, disse Tom seccamente, ed è imbronciato con me quanto si può esserlo perché gli ho detto che suo padre è un furfante. Avevo ben diritto di parlargli così, perché è la verità, ed è stato lui a cominciare dandomi dei nomacci. Ma ora, fermati qui un momento, Maggie, vuoi? Ho qualche cosa da fare sopra. E non posso venirci anch'io? Disse Maggie, che in quel primo giorno in cui si ritrovavano amava perfino l'ombra di Tom. No, è una cosa di cui ti parlerò tra poco, ma non adesso, disse Tom, filando via. Durante il pomeriggio, i ragazzi rimasero sui loro libri, nello studio, a preparare le lezioni per l'indomani, già che alla sera dovevano far vacanza per festeggiare l'arrivo di Maggie. Chino sulla grammatica latina, Tom muoveva le labbra in silenzio come un cattolico osservante, ma impaziente, che sgrani la filastrocca dei suoi paternostri. E Philip, all'altra estremità della stanza, era occupato su due volumi con un'aria di soddisfatta diligenza che eccitava la curiosità di Maggie. Proprio non pareva che stesse studiando una lezione. Ella sedeva su un seggiolino basso, quasi ad angolo retto con i due ragazzi, guardando prima l'uno e poi l'altro. E Philip, alzando una volta gli occhi dal libro verso il caminetto, incontrò due occhi neri di interrogativi fissi su di lui. Pensò che la sorella di Tulliver doveva essere una simpatica personcina, tutta diversa dal fratello. Egli avrebbe desiderato di avere una sorellina. Come mai, si domandava con meraviglia, quegli occhi neri di Maggie gli facevano venire in mente le storie delle principesse trasformate in animali. Credo forse perché quegli occhi erano pieni di inespressa intelligenza e di inespresso supplice affetto. Bene, Maggie, disse infine Tom, chiudendo i libri e mettendoli via con l'energia e la decisione di un perfetto maestro nell'arte di finir di studiare. Adesso le so le mie lezioni. Vieni di sopra con me. Cosa c'è? Disse Maggie quando furono fuori dell'uscio, attraversata da un lieve sospetto a ricordo della visita preliminare che Tom aveva fatta al piano di sopra. Non vorrai mica farmi qualche scherzo adesso, eh? No, no, Maggie, disse Tom col suo tono più lusinghiero. Si tratta di una cosa che ti piacerà, qualunque sia. Mise le braccia intorno al collo di lei, che con le sue cinse Tom alla vita, e così allacciati salirono al piano di sopra. Però, Maggie, non devi parlarne con nessuno, lo sai? Disse Tom. Altrimenti mi busco 50 versi. È vivo? Disse Maggie, la cui immaginazione s'era per un momento fissata sull'idea che Tom tenesse clandestinamente un furetto. Oh, non te lo voglio dire, rispose lui, ma tu mettiti in quell'angolo e nasconditi il viso mentre io faccio i preparativi. Soggiunse, e frattanto chiudeva dietro di sé la porta della camera da letto. Ti dirò io quando dovrai voltarti, e non devi metterti a gridare, capito? Oh, ma se mi spaventi, per forza, disse Maggie, cominciando a prendere un'aria più seria. No, non ti spaventerai, piccola scema, disse Tom. Su, nasconditi la faccia e non cercare di curiosare, bada. Certo che non curioserò, disse Maggie con disprezzo e seppellì il viso nel cuscino da persona strettamente scrupolosa. Ma Tom sogguardava cautamente in giro mentre si avanzava verso l'armadio. Finalmente si fermò nel piccolo vano e quasi ne chiuse la porta. Maggie teneva la testa affondata nel cuscino, anche senza dover fare ricorso ai suoi principi, perché in questo atteggiamento propizio al sogno, ella ebbe presto dimenticato dove si trovava. I suoi pensieri erano tutti occupati da quel povero ragazzo deforme e così intelligente quando Tom la chiamò. Su, adesso, Maggie! Solo una lunga meditazione e un concertato calcolo degli effetti potevano permettere a Tom di presentare una figura così impressionante come quella che gli offerse a Maggie quando ella lo guardò. Insoddisfatto dell'aspetto pacifico di un volto non altrimenti segnato che dal placidissimo accento dei sopraccigli color lino sopra due mansueti occhi grigio-azzurri e due tonde guance rosa che si rifiutavano ad apparir terribili, per quanto egli li corrugasse davanti allo specchio. Egli era ricorso a quell'infallibile creatore di ferocia che è il sughero carbonizzato e s'era fatto un paio di sopraccigli neri che si incrociavano in maniera soddisfacente al di sopra del naso e si congiungevano con altri freghi neri tracciati con minor cura sul mento. Aveva legato un fazzoletto rosso intorno al cappello di panno per dargli l'apparenza di un turbante e s'era buttata a tracolla la sua sciarpa rossa a guisa di bandoliera. Dose di rosso che, unita al tremendo corrugamento della fronte e alla decisione con cui brandiva la sciabola, tenendone la punta appoggiata a terra, doveva essere sufficiente a dare un'idea approssimativa delle sue intenzioni feroci e sanguinarie. Maggie lo guardò sbalordita per un istante e Tom si godette vivamente quell'istante. Ma subito dopo ella si mise a ridere battendo le mani e dicendo: «Oh Tom, ti sei truccato come Barba Blu alla fiera!» Evidentemente non si era lasciato impressionare dalla vista della sciabola che non era sguainata. Il suo spirito frivolo aveva bisogno di essere più direttamente richiamato al senso del terribile e Tom preparò il suo colpo maestro. Due volte più accigliato, nelle intenzioni se non nell'effettivo corrugamento, egli estrasse con cautela la sciabola dal fodero e la puntò contro Maggie. «Oh no, Tom, te ne prego!» esclamò Maggie in tono di contenuto terrore, indietreggiando verso l'angolo opposto. «Mi metterò a gridare, sono certa che griderò! No, per piacere, vorrei non essere mai venuta qui sopra!» Gli angoli della bocca di Tom si mostrarono inclini ad un sorriso di compiacenza che venne subito represso come incongruo con la serietà di un grande guerriero. Depose a terra la guaina piano piano perché non facesse troppo rumore e poi disse severamente: «Io sono il duca di Wellington. Marsh!» Avanzando con la gamba destra un po' piegata e tenendo sempre la sciabola puntata contro Maggie, la quale, tremante, con gli occhi pieni di lacrime, saltò sul letto, essendo quello il solo mezzo di aumentare la distanza tra di loro. Tom, felice di questo spettatore delle sue prodezze militari, anche se si trattava soltanto di Maggie, continuò col massimo dispendio di energia, quello sfoggio di botte e di fendenti, quali naturalmente era da aspettarsi da parte di un duca di Wellington. «Tom, non potrò reggere, dovrò gridare!» disse Maggie al primo movimento della sciabola. «Ti farei male, ti taglierai la testa!» «Uno, due!» gridava Tom risoluto, quantunque al due il polso gli tremasse un poco. Il tre venne più sommesso, e con esso la sciabola ciondolò giù e Maggie cacciò un grido acuto. La sciabola era caduta di taglio sui piedi di Tom, che un momento dopo era caduto anche lui. Maggie balzò dal letto gridando sempre e subito si udì un rumore di passi che si avvicinava alla camera. Mr. Stelling, dal suo studio del piano di sopra, fu il primo a giungere. Trovò i due ragazzi sul pavimento. Tom era svenuto e Maggie lo scrollava per il colletto della giubba, gridando ad occhi sbarrati. Credeva che fosse morto, povera piccola, e lo scuoteva, tuttavia, come se questo potesse richiamarlo in vita. Un minuto dopo ella singhiozzava di gioia perché Tom aveva riaperto gli occhi. Non poteva ancora affliggersi che gli si fosse ferito al piede, le pareva che tutta la felicità consistesse nel saperlo vivo. 5. Una scena d'amore. Il povero Tom sopportò eroicamente il suo atroce dolore e mantenne il proposito di non vendere Mr. Poulter più di quanto fosse inevitabile. La moneta da 5 scellini rimase un segreto perfino per Maggie, ma una terribile angoscia pesava sul suo spirito, così terribile che egli non osava neppure fare la domanda donde poteva rimbalzargli il sì fatale. Non osava domandare al chirurgo o a Mr. Stelling: «Rimarrò zoppo, signore!» Si dominava per non gridare dal dolore, ma quando, medicatogli il piede, l'ebbero lasciato solo con Maggie, seduta accanto al letto, i due ragazzi singhiozzarono insieme con le teste affondate nel medesimo cuscino. Tom si vedeva in atto di camminare con le grucce come il figlio del carrettiere, e Maggie, che non indovinava cosa egli avesse in testa, singhiozzava per tenergli compagnia. Né al chirurgo né a Mr. Stelling era venuto in mente di prevedere in Tom siffatta paura e di rassicurarlo con parole di speranza. Ma Philip attese il chirurgo fuori di casa, manovrò in modo che Mr. Stelling gli rivolgesse proprio quella domanda che Tom non aveva osato di fare per conto suo. Scusate, signore, ma cosa dice Mr. Askern? Che Tulliver rimarrà zoppo? Oh no, disse Mr. Stelling, non per sempre, solo per qualche tempo. E credete che l'abbia detto a Tulliver, signore? No, di questo argomento non si è mai parlato con lui. Allora posso andare io a dirglielo, signore? Ma sì, certamente, ora che voi mi ci fate pensare, ho paura che egli si sia messo questa apprensione. Andate in camera sua, ma tranquillizzatevi completamente. Il primo pensiero di Philip quando aveva sentito quell'incidente era stato: rimarrà zoppo, Tulliver? Sarebbe veramente terribile per lui. E le offese fino allora imperdonate di Tom vennero cancellate da questa compassione. Philip sentiva che tra loro non sarebbe più potuto sussistere quello stato di antipatia, ormai che erano travolti in una comune corrente di sofferenza e di amara privazione. La sua immaginazione non si fermò sulla presente disgrazia, né sui futuri effetti che essa avrebbe avuto nella vita di Tom, ma gli rappresentò vivamente il probabile stato d'animo di Tom. Egli non era vissuto che 14 anni, ma quegli anni erano stati per la maggior parte impregnati dal senso di un destino irrimediabilmente doloroso. Mister Askern dice che farete presto a rimettervi. Tulliver, lo sapevate? L'ho domandato ora a Mister Stelling e mi ha risposto che tra pochissimo tempo camminerete bene come prima. Tom alzò gli occhi con quell'improvviso arresto del respiro che accompagna una gioia subitanea. Poi trasse un lungo sospiro e fissò i suoi occhi grigio-azzurri sul viso di Philip come non faceva da 15 giorni e più. Quanto a Maggie, questa insinuazione di una possibilità a cui non aveva ancora pensato la colpì come un nuovo dolore. La semplice idea che Tom potesse essere per sempre zoppo prevalse sull'assicurazione che una simile disgrazia era scongiurata. Si attaccò a lui rimettendosi a piangere. «Non fare la scema, Maggie!» disse Tom con tenerezza, sentendosi ormai coraggiosissimo. Sarò presto guarito. Ciao, Tulliver, disse Philip, tendendogli la sua piccola mano delicata, che Tom strinse immediatamente tra le sue dita più solide. Oh, dico, soggiunse Tom, chiedete a Mr. Stelling che vi lasci venire qualche volta a stare con me finché io sia in piedi, Wakem. Mi racconterete di Robert Bruce, sapete? Dopodiché, Philip trascorse con Tom e Maggie tutto il tempo lasciatogli libero dalla scuola. Tom amava più che mai di udire i racconti di battaglia, ma insisteva energicamente sul fatto che quei grandi guerrieri, che avevano compiuto tante meravigliose imprese e ne erano usciti illesi, portavano delle eccellenti armature dalla testa ai piedi, le quali a suo avviso rendevano facile cosa il combattere. Lui non si sarebbe ferito al piede se avesse avuto dei calzari di ferro. Ascoltò con grande interesse una nuova storia di Philip su un uomo che aveva una ferita veramente maligna al piede e gridava così terribilmente dal dolore che i suoi amici non poterono più sopportarlo. Anzi, lo sbarcarono su un'isola deserta, null'altro lasciandogli che delle frecce avvelenate con cui uccidesse gli animali per nutrirsi. Io non ho cacciato manco un gemito, sapete? Disse Tom. Eppure credo bene che il mio piede mi facesse male quanto il suo. È una vigliaccheria gridare. Ma Maggie sostenne che quando una cosa ti fa molto male è perfettamente lecito piangere e che quella gente era molto crudele a non sopportarlo. Voleva sapere se Filottete aveva una sorella e perché quella non era andata con lui sull'isola deserta a curarlo. Un giorno, poco dopo che aveva narrato questa storia, Philip si trovò solo con Maggie nello studio, mentre veniva fatta la medicazione al piede di Tom. Philip era chino sui libri e Maggie, dopo di aver girovagato oziosamente per la camera, senza pensare a far nulla di speciale, perché doveva ritornare subito da Tom, venne ad appoggiarsi al tavolo accanto a Philip per vedere di che si stava occupando, già che ormai erano divenuti vecchi amici, in perfetta confidenza l'un con l'altra. «Cosa state leggendo in greco?» disse. «È poesia. Me ne accorgo perché le righe sono così corte.» «Si tratta di Filottete, quello zoppo di cui vi ho raccontato ieri», egli rispose, posando il capo su una mano e guardando verso di lei, come se non fosse affatto spiacente di essere stato interrotto. Maggie, con la solita sua distrazione, continuava a chinarsi in avanti, appoggiata sulle braccia e scalpicciando coi piedi, mentre i suoi occhi neri si facevano sempre più fissi e vuoti, come si fosse completamente dimenticata di Philip e del libro. «Maggie», disse Philip dopo un minuto o due, sempre appoggiato sul gomito e guardandola, «se aveste avuto un fratello come me, credete che gli avreste voluto bene quanto a Tom?» Maggie trasalì un poco al sentirsi così ridestata dalla sua fantasticheria e disse: Come? Philip ripeté la domanda. Oh sì, di più, rispose ella immediatamente. No, non di più, perché non credo che vi potrei volere più bene che a Tom, ma sarei così triste per voi. Philip arrossì. Aveva desiderato di sapere se ella gli avrebbe voluto altrettanto bene a dispetto della sua deformità. E ora che ella vi aveva alluso con tanta franchezza, si rivolgeva contro la sua pietà. Maggie, per quanto giovane, avvertì il proprio errore. Fino allora si era istintivamente comportata come se fosse stato affatto inconsapevole della deformità di Philip. La sua acuta sensibilità e la sua esperienza delle critiche familiari bastavano a guidarla su questo terreno, quanto avrebbe potuto fare l'educazione più compita. Ma voi siete così intelligente, Philip. E sapete suonare e cantare, soggiunse prontamente. Vorrei che foste mio fratello. Ho tanta tenerezza per voi. Rimarreste a casa con me quando Tom esce e mi insegnereste tutto, vero? Il greco e tutto quanto. Ma voi mi lascereste subito per andare in collegio, Maggie, disse Philip. E allora vi dimenticherete completamente di me, senza più darvene pensiero. E non vi vedrei che quando sareste divenuta grande e voi non vi accorgereste quasi nemmeno di me. No, no, no, non vi dimenticherei, ne sono certa, disse Maggie scrollando il capo con grande serietà. Io non mi dimentico mai di nulla e penso a tutti quando sono lontana. Penso al povero Yap che ha un nodo in gola e Luke dice che ne morrà, ma non ditelo a Tom perché ne avrebbe tanto dispiacere. Voi non avete mai visto Yap? È uno strano piccolo cane, nessuno si cura di lui tranne che Tom e io. E di me vi importa come di Yap, Maggie? Disse Philip con un sorriso piuttosto triste. Oh sì, credo di sì, disse Maggie ridendo. Io vi voglio molto bene, Maggie. Non mi dimenticherò mai di voi, disse Philip. E quando sarò molto infelice penserò sempre a voi e desidererò di avere una sorella con gli occhi neri, proprio come i vostri. Perché? Vi piacciono i miei occhi? Disse Maggie tutta contenta. Non aveva mai sentito nessuno fuori del babbo parlare dei suoi occhi come se avessero qualche pregio. Non lo so, disse Philip. Sono diversi da tutti gli altri. Pare che vogliano parlare con dolcezza. A me non piace che l'altra gente mi guardi tanto, ma mi piace che voi mi guardiate, Maggie. Ma allora credo che mi vogliate più bene che Tom, disse Maggie quasi con tristezza. E poi, studiandosi di convincere Philip che lei gli voleva ugualmente bene, quantunque fosse deforme, disse: Vi piacerebbe che vi dessi un bacio come a Tom? Lo farò se vi piace. Oh sì, tanto tanto. Nessuno mi bacia. Maggie gli buttò le braccia al collo e lo baciò con grande affetto. Ed ora, gli disse, mi ricorderò sempre di voi e vi bacerò quando ci rivedremo, anche se sarà passato tanto tempo. Ma adesso bisogna che me ne vada, perché Mr. Askern deve aver finito col piede di Tom. Quando il babbo venne per la seconda volta, Maggie gli disse: Babbo, Philip Wakem è tanto buono con Tom. È un ragazzo così intelligente e io gli voglio bene. Anche tu, Tom, gli vuoi bene, non è vero? Dillo che gli vuoi bene, soggiunse con insistenza. Tom arrossì un poco guardando il babbo e disse: Non saremo più amici con lui quando lascerò la scuola, babbo. Ma adesso ci siamo riconciliati da quando mi sono fatto male al piede. Mi ha insegnato a giocare a dama e io riesco a vincerlo. Bene, bene, disse Mr. Tulliver. Se è buono con te, cerca di ricambiarlo e sii buono con lui. È una povera creatura deforme, ha preso tutto dalla sua povera mamma. Ma non diventargli troppo amico. In lui c'è anche del sangue di suo padre, eh? Il puledro grigio può tirar calci come il padre nero. La diversa indole dei due ragazzi fece quello che da solo l'avvertimento di Mr. Tulliver non sarebbe riuscito a fare. Ad onta della nuova benevolenza di Philip e dei riguardi che Tom gli ricambiò durante questo periodo di malattia, essi non diventarono mai amici intimi. Quando Maggie fu partita e Tom gradatamente ricominciò a camminare come prima, quel calore di amicizia creato dalla compassione e dalla gratitudine morì a poco e li lasciò nelle reciproche relazioni di prima. Philip era spesso acre e sprezzante, e le speciali e benevoli impressioni di Tom si riconfusero a poco nel vecchio sfondo di sospetto e di antipatia per quel bizzarro compagno gobbo e figlio di un filibustiere. Affinché ragazzi e uomini possano unirsi saldamente nella fiamma di un sentimento passeggero, bisogna che siano costituiti di metalli suscettibili di far lega, se no, tornano inevitabilmente a separarsi appena quella fiamma si estingue. 7. Le porte d'oro son varcate. Così, in un modo o nell'altro, Tom arrivò al suo quinto semestre di King's Lorton, finché ebbe compiuti 16 anni, mentre Maggie veniva su con una rapidità che le zie giudicavano altamente riprovevole al pensionato di Miss Furniss nella vecchia città di Laceham sulla Floss, e la cugina Lucy le era compagna. Nelle prime lettere a Tom ella aveva sempre mandato le sue tenerezze a Philip e faceva su di lui molte domande a cui veniva risposto con brevi frasi sul mal di denti di Tom e su una capanna di zolle che gli aiutava a costruire in giardino e con altre notizie del genere. Le faceva pena, durante le vacanze, di sentirsi dire da Tom che Philip tornava ad essere quanto mai bizzarro e spesso di malumore. Non erano più buoni amici, se ne accorgeva. Quando rammentava a Tom che egli doveva sempre voler bene a Philip perché era stato così caro con lui al tempo del suo male al piede, quello rispondeva: «Già, non è colpa mia, io non faccio nulla a lui». Ella rivide appena Philip durante il resto dei loro anni di collegio. Nelle vacanze d'estate egli andava sempre al mare e a Natale le accadeva soltanto di incontrarlo a rari intervalli per le strade di St. Oaks. Quando si incontravano, lei si ricordava della promessa di abbracciarlo. Ma la vera signorina che è stata in collegio sapeva ormai che un tal modo di salutarsi era fuori di questione e che Philip non poteva aspettarselo. La promessa era senza effetto come tante altre dolci, illusorie promesse della nostra infanzia, vana come le promesse fatte nell'Eden, avanti che le stagioni fossero divise. E quando le gemme stellanti crescevano accanto alle pesche mature, impossibile a mantenersi quando le porte d'oro sono state varcate. Ma allorché il babbo, dopo tante minacce, si trovò impegnato nella sua causa, e Wakeham, come rappresentante di Pivart, nonché del vecchio Harry, si mise ad agire contro di lui, anche Maggie sentì con una tal tristezza quanto fosse ormai improbabile di poter ancora annodare qualche intimità con Philip. Il solo nome di Wakeham metteva fuori dai gangheri il babbo, ed ella gli aveva sentito dire una volta che se quel ragazzo mal segnato sopravviveva a ereditare gli iniqui guadagni del padre, una maledizione sarebbe caduta su di lui. «A scuola abbi il meno possibile di rapporti con lui», diceva Tom, e l'ordine veniva eseguito tanto più facilmente in quanto allora Mr. Stelling aveva 2 allievi di più, giacché se l'ascesa di quel gentiluomo nel mondo non aveva la meteorica rapidità che gli ammiratori della sua eloquenza estemporanea avevano preconizzata ad un predicatore, la cui voce era fatta per espandersi in così ampie sfere. Tuttavia la sua prosperità si accresceva in misura sufficiente per autorizzarlo ad aumentare le proprie spese in continua sproporzione con il proprio reddito. Quanto agli studi di Tom, essi procedevano con la monotonia di un mulino, dato che il suo spirito continuava a muoversi con ritmo lento e mezzo paralizzato tra un gioco di idee indifferenti o incomprensibili. Ma ad ogni vacanza egli portava a casa dei disegni sempre più grandi, con quel modo di fare il paesaggio che pareva seta, e degli acquerelli di un verde brillante, e poi quaderni pieni di esercizi e di problemi dove la scrittura era sempre più bella, perché egli vi metteva tutta la propria applicazione. A ogni vacanza portava a casa 1 o 2 libri nuovi che indicavano i suoi progressi nei diversi periodi della storia, della dottrina cristiana e della letteratura latina. E questo tempo non rimase del tutto senza risultati, a parte il possesso dei libri. Gli orecchi e la lingua di Tom si erano abituati a una quantità di parole e frasi che sono ritenute indizio di buona istruzione, e quantunque egli non avesse mai realmente applicata l'intelligenza ad alcuna delle sue lezioni, Quelle lezioni avevano pur lasciato un residuo di notizie vaghe, frammentarie ed inefficaci. Mr. Tulliver, scorgendo i segni di un'istruzione superiore e alla portata delle proprie facoltà critiche, pensava che probabilmente tutto filava bene nell'educazione di Tom. Osservò, a vero dire, che non c'erano mappe e non abbastanza somme. Ma non ne fece formale rimostranza a Mr. Stelling, era una faccenda imbarazzante questa del collegio. E se toglieva Tom di lì, dove avrebbe potuto mandarlo con risultati migliori? Nell'epoca in cui Tom giungeva al suo ultimo trimestre di King's Lorton, gli anni avevano operato su di lui profondi cambiamenti. Dal giorno in cui l'abbiamo veduto ritornare dall'Accademia di Mr. Jacobs. Adesso era un grande giovanotto, senza la minima ombra di imbarazzo nel contegno, mostrava nel parlare solo quel tanto di riserbo che era decoroso, indizio di modestia, insieme ed orgoglio. Portava la giubba a coda e il colletto diritto e sorvegliava con viva impazienza la peluria delle proprie labbra, lanciando ogni giorno qualche occhiata al rasoio ancor vergine di cui si era provvisto durante le ultime vacanze. Philip se n'era ormai andato al trimestre d'autunno, dovendo recarsi a passare l'inverno nel mezzogiorno per motivi di salute, e questo cambiamento contribuì a mettere addosso a Tom quell'agitata esultanza che di solito si accompagna agli ultimi mesi precedenti l'uscita dal collegio. Per di più, c'era qualche speranza che durante questo trimestre si decidesse la causa del babbo, il che rendeva ancora più interamente gradevole la prospettiva di tornare a casa, già che Tom, che della causa si era fatto un criterio in base alle conversazioni del babbo, non aveva alcun dubbio sulla condanna di Pivart. Da parecchie settimane Tom non aveva notizie da casa, fatto che non lo sorprendeva perché suo padre e sua madre non erano tipi da manifestare il loro affetto con lettere non necessarie. Allorché, con suo grande stupore, nella mattina di un cupo e freddo giorno verso la fine di novembre, gli fu detto, poco dopo che gli era entrato nello studio alle 9, che c'era sua sorella in salotto. Mrs. Stelling, che era venuta nello studio ad avvertirlo, l'aveva poi lasciato entrare solo nel salotto. Anche Maggie ormai era grande, coi capelli intrecciati e tirati su, non aveva che 13 anni, ma era alta quasi come Tom, e realmente a quel tempo pareva più vecchia di lui. Si era tolto il berretto e le sue pesanti trecce erano gettate indietro sulla fronte, come se questa non potesse reggerne il sovraccarico. Il giovane volto aveva un'espressione stranamente stanca, mentre gli occhi si volgevano ansiosi verso la porta. Quando Tom entrò, ella non fece parola, gli andò incontro, gli buttò le braccia intorno al collo e lo baciò con affetto. Avvezzo ai mutevoli modi di lei, egli non si mise affatto in apprensione per quell'insolita serietà del suo saluto. «Ma com'è che sei venuta così presto in questa mattina tanto fredda, Maggie? Arrivi con la carrozza?» disse Tom, mentre ella retrocedeva verso il divano e trascinava anche lui accanto a sé. «No, ho preso la diligenza. Sono venuta a piedi dalla barriera. E come mai non sei al collegio? Le vacanze non sono ancora cominciate.» «Il babbo mi ha voluta a casa», disse Maggie con un leggero tremito delle labbra. «Sono rientrata 3 o 4 giorni fa.» «Sta poco bene il babbo?» disse Tom con una certa inquietudine. «Poco bene, sì», disse Maggie. «È molto infelice, Tom. La causa è terminata e io sono venuta a dirtelo perché ho pensato che era meglio che tu lo sapessi prima di tornare a casa e non mi piaceva di avvertirtene solo per lettera.» «Il babbo non ha mica perduto!» disse Tom immediatamente, balzando dal divano. Rimasto in piedi davanti a Maggie, si cacciò nervosamente le mani in tasca. «Sì, caro Tom», disse Maggie e tremante alzò gli occhi verso di lui. Tom rimase zitto per un minuto o due con lo sguardo fisso sul pavimento, poi disse: «Il babbo avrà da pagare una bella somma di denaro, allora.» «Sì», disse Maggie, quasi venendo meno. «Ah, bene, si potrà provvedere», disse Tom bravamente, non riuscendo a prospettarsi le concrete conseguenze della perdita di una grossa somma. «Ma il babbo sarà molto afflitto, temo.» Soggiunse, guardando Maggie e pensando che quel viso agitato era solo l'effetto di una maniera infantile di vedere le cose. «Sì», disse Maggie, «come se di nuovo venisse meno.» Poi, come l'assenza d'ogni inquietudine in Tom la costringeva ad una spiegazione più completa, disse con voce bassa e rapida, come se le parole le venissero fuori da sole: «Oh, Tom, Perderà il mulino e la terra e tutto quanto. Non gli rimarrà più nulla. Gli occhi di Tom le lanciarono uno sguardo di sorpresa, poi egli impallidì e fu preso da un terribile tremito. Non fece parola, ma tornò a sedersi sul divano, guardando vagamente fuori della finestra di fronte.